Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Un'amicizia che si è trasformata in un'ossessione, con telefonate e messaggini sempre più minacciosi e assillanti. Anna Oxa ha denunciato per molestie un medico di 61 anni che aveva conosciuto a Milano. Lo arrestano per stalking ai danni della ex moglie. Tempini, che in passato è già stato denunciato per lo stesso reato, si presenta sotto casa della ex moglie 22enne e inizia a colpire violentamente la porta, cercando di sfondarla a calci e pugni. Il reato di stalking, che è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2009, è un fenomeno in crescita. Un nuovo grave caso di stalking è risultato fatale a una donna di 37 anni. Da quando c'è questa legge moltissime donne hanno deciso di denunziare. Perché? Perché sanno che non sono costrette. Noi ci siamo occupati più volte di stalking. Più volte abbiamo raccolto testimonianze di ascoltatrici, abbiamo sentito esperti. Finalmente poi è arrivata una legge, sono 3 anni che c'è una legge che reprime e partecipa e considera come un reato vero e proprio lo stalking. Prima non veniva considerato come tale. Lo stalker è la persona ossessionata da un'altra persona, fondamentalmente convinto che esista tra loro una storia d'amore ininterrotta e impossibilitata a interrompersi, che cominciano atteggiamenti persecutori, credo anche ad essere molto violenti, a rovinare completamente la vita dell'altra persona. Riprendo questo argomento a 3 anni dalla legge per capire cosa è cambiato. È servita la legge? Sono diminuiti il numero degli stalker? La normativa e l'attività repressiva ha favorito lo scoraggiare degli stalker, ci sono aumentate le denunce di stalker. Ieri ci sono stati 3 casi che sono stati messi assieme in fila sulle cronache di 3 persone arrestate per stalking a Milano. Uno è un milanese di 37 anni con dei problemi di tossicodipendenza, in una circostanza aggravante, che perseguitava una donna con cui aveva avuto una bambina. La donna, finalmente, dopo averlo visto in atteggiamento sospetto più volte accanto alla sua bambina, l'ha denunciato, è stato arrestato. 3 anni fa non sarebbe forse stato arrestato. Il secondo episodio riguarda un egiziano, anche lui nell'area del milanese, aveva tormentato per mesi un'impiegata di 45 anni e alla fine è stato arrestato. Al momento la signora è uscita da questo incubo, ma quanto durerà questa cosa? Il terzo è un ragazzo che ha accoltellato il fidanzato della sua ex, anche lì è un caso che arriva al punto estremo. Beh, questa mattina vorrei chiamare le ascoltatrici, soprattutto perché le prime vittime sono donne di stalker, anche se ci sono uomini che subiscono lo stalking da parte di donne, ma normalmente è meno cruento, meno grave, meno ossessivo, o perlomeno ci sono meno casi. Chiamate senza paura, senza timore all'800240024, perché oggi vorremmo fare il punto sullo stalking a 3 anni dalla legge. Questa persona al momento del mio rifiuto è diventata un'ossessione. Io sono diventata un'ossessione per lui è diventato un'ossessione per me. Un'ossessione di paura, di continua insicurezza. Non sto a dirvi, diciamo, giornalmente quello che poteva essere la mia vita, perché non accettava nulla di me, né fisicamente, da come mi vestivo, da come mi pettinavo, dalle attività che svolgevo, perché io comunque andavo in ufficio, per cui me lo trovavo continuamente dappertutto, all'entrata di scuola del bambino e dopo un quarto d'ora all'entrata dell'ufficio, all'ora della pausa pranzo fuori dall'ufficio, all'ora del rientro dalla pausa pranzo davanti all'ufficio, all'ora di uscita dall'ufficio, andavo a scuola e quindi davanti alla scuola del bambino, al parco con gli amici di mio figlio, e al parco c'era anche lui. Questa è la testimonianza di Maria, una vittima di stalking. L'abbiamo presa da YouTube, ma poi vedremo che è una persona conosciuta dall'ospite che ho con me in studio, che è ancora non presento. Vi leggo un SMS, scrivo un'ascoltatrice, già stanno arrivando molti messaggi, quindi è sentita questa cosa, è vicina all'emotività generale. Già mi ha scritto anche un'amica mia dicendo che da 5 anni ho subito stalker, era il mio vicino di casa. E questo è un avvocato. Dice, ho conosciuto il significato della parola stalking dopo la separazione. Il mio ex non accettava la cosa e così iniziò a ossessionarmi con sms, telefonate, scenate, minacce. Lo stalker ti cambia la vita, mina la tua libertà personale, ti fa stare sempre col fiato corto, con la tachicardia, ogni secondo ti ricorda che lui è presente. Questo per 6 anni, continuamente. Il tutto corredato da sms continui sul telefono, email in ufficio. Ho chiesto al mio datore di lavoro di inibirmi in entrata i suoi indirizzi email, che ero tempestata, non c'era spazio per null'altro. Telefonate in ufficio sul telefono fisso, quindi anche problemi a livello lavorativo, perché non vi dico la vergogna, comunque l'umiliazione continua. In tutto ciò, dopo 1 anno e mezzo di questo assillo, sono entrata in un commissariato in una caserma dei carabinieri e ho fatto il primo esposto, a cui ovviamente non ha risultato nulla. Dottor Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno. Lattanzi è psicologo, psicoterapeuta e fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, www.stalking.it. Lei, dottor Lattanzi, questa voce la conosce? Sì. Una delle persone che, diciamo, hanno fatto riferimento alla sua associazione? Assolutamente sì, è una delle migliaia di donne, essenzialmente donne nel 70%, che chiede consulenza psicologica e legale. E questo, diciamo, che essenzialmente nei primissimi mesi dopo la promulgazione del 612 bis, gli atti persecutori, noi abbiamo avuto decine e decine di richieste anche giornaliere. Purtroppo da un anno e mezzo a questa parte, purtroppo questo flusso di richieste è diminuito. Questo cosa significa? Che la legge non è efficace? Non è efficace al 100%, perché la sola giustizia punitiva nei confronti degli stalker non produce il contenimento che ci si aspetta. Cosa dice la legge esattamente? Che chiunque in maniera reiterata, ripetuta, subisce minacce o forme di persecuzione che possano in qualche modo cambiare abitudini di vita, procurano ansia e paura, possono in qualche modo chiedere nei confronti di uno o più presunti stalker un ordine restrittivo piuttosto che un ammonimento, piuttosto che una misura cautelare. Quindi, per tradurlo in termini comprensibili, la legge dice tu non puoi più avvicinarti a tot metri da casa di questa donna perché sei stato considerato uno stalker. Ad esempio sì, ma nel 70% gli ordini restrittivi non vengono rispettati, perché purtroppo non ci sono neanche le forze sufficienti per coordinare e tutelare le migliaia di stalker o presunti tali che hanno subito delle misure cautelari. Cioè, ci vorrebbe una volante ogni casa di vittima di stalker per controllarlo. Per una tutela efficace, purtroppo sì. E per arrivare all'arresto cosa bisogna fare? Bisogna reiterare, di solito, questo poi lo valuta il giudice, il rischio della gravità della situazione, però ripeto, anche con l'arresto noi seguiamo anche stalker che sono in carcere, persone che hanno già scontato, che sono gli arresti domiciliari, e vi posso assicurare che queste persone, senza un percorso di risocializzazione, continuano e continueranno ad agire atti persecutori, se non purtroppo arrivare anche ad agiti più gravi. Lei è psicoterapeuta, qual è il meccanismo profondo che muove lo stalker? Cosa pensa? È convinto che in realtà la persona lo ami e deve soltanto lui rendere lei consapevole del fatto che in realtà lo ama, quindi non può vivere senza di lui. Sì, essenzialmente è un sentimento forte, ma non è solo il questione di amore, perché come dicevate prima voi, i contesti sono i più disparati, dal vicino di casa al collega di lavoro, all'amico, all'ex partner o al partner. Il discorso è un altro, che queste persone non sopportano l'abbandono, la separazione non voluta da loro. Il problema più grave è questo, la risocializzazione e l'accettazione di una separazione, di un abbandono. Tu non puoi lasciarmi. Se non voglio io. Quindi vorrebbero rimettersi con la persona, risancirne il possesso, poi magari liberarsene pure. Poi se si stancano, o lasciano questa persona e si spostano su un'altra, oppure sistematicamente sono degli stalker anche recidivi e seriali. Quindi diventa patologico quello che è il classico sentimento da fanciulli adolescenti, quando a scuola ci si mette insieme, ci si lascia, ci si innamora, si soffre, solo che sono adulti e in realtà lo diventa compulsiva questa cosa. Esattamente, loro non vivono l'amore, vivono costantemente l'innamoramento, che è una una cosa ben differente. E vivendo sempre l'innamoramento e la passione è più forte, è invadente rispetto a un'emozione come, o un sentimento come l'amore. Quindi queste persone vivono sempre l'idillio, sempre il sogno amoroso. Sono degli infantili fondamentalmente. Per alcuni tipi di relazione sì. Il brutto, passatemi il termine, è che nella società funzionano queste persone, sono ben inserite nella società e che perdono il controllo in questa tipica relazione per loro importante. Questo diventa molto subdolo, perché poi in realtà poi la società intorno a loro tende quasi a giustificarli. Madri che dicono: ma è un bravo ragazzo, bravissimo, ti vuole bene, perché non lo vuoi? L'ultima ricerca che noi abbiamo fatto proprio sul bravo ragazzo, brava persona e potenziale omicida e stalker. Hanno una facciata di perbenismo, hanno una facciata di rispettabilità che proprio serve per poter continuare imperterriti nella loro opera di persecuzione. Ecco le prime vittime di stalker. Annalisa, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Annalisa è la persona che mi ha scritto pochi istanti fa su Facebook. Conosco una mia antica amica che non vedo da almeno 30 anni, che ha scritto questo messaggio: da 5 anni ha subito un'attenzione non voluta da un tuo vicino di casa. Sì, è successo una decina di anni fa. Questo soggetto mi telefonava di notte a qualsiasi ora. Sapeva tutto di me, i miei spostamenti, dove parcheggiavo la macchina, a che ora, quando uscivo, che cosa c'era all'interno della macchina, come ero vestita. E io ho deciso, per motivi miei personali, lavorando nel settore giustizia, di non avvisare la polizia. Ancora non c'era la legge però, Annalisa? No, certo che non precedente c'era niente alla legge, sì. Quindi sarebbe stata semplicemente una molestia a mezzo telefono, tra l'altro, ecco. Quindi, essendo tuo avvocato, sapevi che sarebbe stata una lungaggine inutile, sì, non risolvevi assolutamente nulla. Inutile, sì. E poi alla fine, grazie all'avvento del numero visibile, l'ho scoperto. L'ho richiamato a casa, però nel momento in cui io ho capito che era non lo conoscevo, ho capito che era un individuo che abitava di fronte a casa mia, mi sono sentita, cioè, ho chiuso tutte le finestre, e mi sono chiusa dentro casa per circa 10 minuti, un quarto d'ora, terrorizzata. Poi dopo ho preso coraggio, l'ho chiamato e c'è stato un confronto. Ecco, tu come vedi lo strumento attuale di repressione nei confronti dello stalker? A questo punto approfitto della tua qualifica professionale, giudizio. Guarda, ti dico questo, deve essere, secondo me, a mio avviso, per la mia esperienza, una cosa molto, cioè la donna deve essere veramente spaventata e in pericolo proprio di vita, perché sennò non è poi tanto facile far scattare il meccanismo. Quindi è difficile una donna denunci, ma perché? Non c'è sensibilizzazione? No, la donna denuncia anche, solo che difficilmente viene creduta proprio fino in fondo, e quindi prima di attivare... E qual è la lacuna allora proprio della legge? Così entriamo proprio in merito, perché se c'è una legge che da 3 anni nonostante... Ma sai, è una legge che in America funziona benissimo. Qui in Italia purtroppo, secondo me, ancora non c'è la mentalità e non ci sono i mezzi per quindi le cioè donne siamo un paese paura. Talmente ancora veterofamilista che pensa che in fondo l'amore potrebbe vincere su tutto. Non è considerato una reale violenza nei confronti di una donna anche l'attenzione amorosa non richiesta? Ma guarda, se è un'attenzione amorosa non richiesta da parte di un ex, molto spesso non viene denunciata. Se invece è un'attenzione, come per esempio è successo nel caso mio, da parte di uno sconosciuto, allora forse... Che spaventa molto di più. Grazie Annalisa, grazie Paola. Niente. Buongiorno Paola. Paola? Pronto? Sì. Buongiorno. Allora, vabbè, io non so dove cominciare. Comunque volevo dire che anche io sono stata vittima, ma per lunghissimo tempo, 25 anni... di stalking, e purtroppo non potevo liberarmi di questa persona perché il nostro lavoro ci portava a viaggiare moltissimo. In più avevo tre figli. Andava in trasferta con il suo aguzzino. Sì, esatto. Anche a ricordarli adesso mi sento male. Nel 97 siamo riusciti a separarci, cioè la separazione è stata chiesta da lui, perché dopo tante torture ha stabilito da un momento all'altro che dovevo uscire dalla sua vita, che tutto sommato non mi aveva mai puntato la pistola. Ma avevate una storia d'amore fra voi oppure eravate semplicemente colleghi? No, era stata all'inizio una storia d'amore, poi ci eravamo sposati e avevamo tre figli. Vabbè, è più complesso di come dice lei, era un suo marito con cui viveva assieme. Sì, no, era mio marito, per cui io tante volte provavo anche la voglia e il desiderio di aiutarlo, capivo che la sua magari non era una... cioè che la sua era una malattia. Quindi lei era complice in parte, non era decisa nel doverlo eliminare dalla sua vita. Ma non potevo fare diversamente, perché varie volte ho cercato di chiedere aiuto, ma non ne ho ottenuto assolutamente, perché... E come l'ha risolta questa cosa? Io non l'ho risolta, alla fine ho subito fino alla fine anche tutte le conseguenze, che nel 97 lui chiese la separazione e da un giorno all'altro mi ritrovai a Roma, in una città non mia, dove ci eravamo appena trasferiti, io ho 52 anni, a dover mettermi a cercare qualcosa da fare, l'operaia, che mi decise che doveva andarsene. Beh, però sua libertà, la sua serenità nei confronti di una vita un po' più difficile, forse era un esperimento da fare. Certo, io l'ho fatto, mi sono separata, ho accettato la separazione di buon grado, soltanto che lui ha continuato a perseguitarmi. Beh, com'è finita? Quando se n'è liberata? Non me ne sono tuttora liberata. Ah, quindi ce l'ha ancora addosso? Ce l'ho ancora addosso indirettamente, perché attraverso figli, conoscenze, figli, mi tiene d'occhio. Allora, fermiamoci un secondo, resta un attimellina. Dottor Lattanzi, questo è un esempio interessante. Sì. Questa signora che strumenti ha per interrompere, rivolgendosi alla legge, questo rapporto? No, perché è impalpabile, sottile, difficile, è il padre dei figli, dovrà vedere i figli, dovrà comunque avere rapporti con lei. Come fa a dire questa persona mi ossessiona? Questo è un caso un po' da manuale che riguarda il 55% dei casi, purtroppo, di atti persecutori, stalking. Se mi posso permettere, posso suggerire alla persona di fare un lavoro su se stessa rispetto alla sua spiccata empatia, che sinceramente è molto utile, ma nel caso, come lei ha espresso poco fa, io voglio aiutarlo e ci sta, perché comunque il padre dei miei figli è una persona con cui ho convissuto diversi anni. Noi possiamo, come centro, e anche altri centri in Italia possono fornire questo strumento, che servirà un pochettino a distaccarsi da questa figura e poi trovare altri strumenti ancora più utili. Cioè, con strumenti propri non ci se la fa, occorre chiedere aiuto, questo è il fatto. Chiedere aiuto, perché comunque ci sono i figlioli di mezzo, è comunque il padre dei figli, quindi in qualche modo c'è un affetto, un qualcosa che lega la signora al proprio ex partner, quindi deve fare un lavoro su se stessa, su accettare e cercare in qualche modo di mettere un confine con questa persona, che probabilmente sarà anche un manipolatore oltre che un persecutore, una persona che in qualche modo la criticava, la faceva sentire in colpa. Questo ce lo potrà dire la signora. Bene, noi metteremo in contatto poi gli ascoltatori che vogliono con lei, per avere certo modo di avere l'aiuto che penso che da soli sarà un po' difficile darsi. Sentiamo adesso Aldo. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, la sento. Buongiorno. Dunque, la mia storia è cominciata nel 2005, quindi ancora prima che se fosse un discorso abbastanza pesante come gli ultimi due anni, no? E mi sono ritrovato a fare dello stalker, no? Lei era un molestatore, quindi? Diciamo che ai tempi io non conoscevo neanche il significato di questa parola. Lei non si rendeva conto di compiere un'azione violenta nei confronti di una persona? Bravissimo. E, diciamo che io ho conosciuto questa persona sul lavoro, no? Questa persona si è attaccata a me e di conseguenza anch'io poi mi sono fatto trasportare da questo amore, che è diventato un amore grandissimo, no? Nei confronti di questa persona. E poi all'improvviso questa persona ha avuto chiudere ogni rapporto senza la mia spiegazione. Beh, ma questo è il suo diritto, però. Sì, ma nessuno nega i diritti delle persone, però come penso che lei possa dire, sono stato lacerato da pene d'amore come tutti in tutta la mia vita. Avere una risposta a un perché, e anche quello è un diritto, no? Cioè io non è che mi sono comprato da stalker subito, ho cercato una spiegazione da parte di questa persona del suo comportamento, e questa persona non me l'ha mai data, anzi si è rinchiusa in se stessa, evitando ogni contatto, e da quel momento lì la mia parte psicologica è crollata, no? E ha cominciato a perseguitare. Ho cominciato a fare quelle azioni che... E me ne descriva qualcuna, cosa faceva? Diciamo che all'inizio ho cominciato a tempestare di telefonate, no? Senza risposte, chiaramente. Poi pian piano ho cominciato ad agire in modo un po' più diverso, facendo delle email, dei fax sul lavoro per cercare un contatto, no, con questa persona. e da quel momento ho avuto un ulteriore crollo, perché la mia mente si è sdoppiata da amore diventato odio a questa persona, e ho cominciato a minacciarla indirettamente, sempre con i messaggi, e poi facendo, senza accorgermene, dei lunghi viaggi per andarla a incontrare, no? Sul posto di lavoro, a casa. Io facevo dei viaggi in treno di 100 km alla volta, no? Senza un motivo logico da parte mia, perché non ero più io la persona. Ma lei era convinto, questo mi interessa, che in fondo questa persona doveva essere semplicemente risvegliata da un suo senso di chiusura, che in fondo l'amasse, che lei poteva in qualche maniera risvegliare questo amore? C'era questa convinzione? Per questo è il rovello che muove, secondo me, questo tipo di... C'è anche quello, indubbiamente c'è anche quello il problema, però più che altro sono convintissimo da parte mia, per quello che io ho vissuto per 5 anni, che ho avuto 5 anni di crisi profonda, no? Anche fisica, no? E sempre alla ricerca della verità, no? Che purtroppo fa le persone oggi come oggi non è più la cosa principale. Ma fermiamoci soltanto un istante. 800 24 00 24, oggi parliamo di stalking, ne parliamo a 3 anni la legge, e vediamo come la legge potrebbe essere migliorata, come il fenomeno si è dimostrato sensibile a ciò che è accaduto in questi 3 anni. Sembra che in realtà non sia cambiato molto, ma non vuole essere la nostra un'istigazione a non affidarsi alla giustizia. La prima cosa da fare è sempre comunque denunciare, però può essere fatto qualcosa in più. Vedo molti ascoltatori che danno le loro formule personali per risolvere il problema. Uno dice: io sono per il porto d'armi per difesa personale, per cittadini onesti. Dicono: un colpo in testa lo stalker non disturberebbe più. Un altro suggerisce di farlo picchiare per bene ad alcune persone specializzate, magari non risponde più. Massimo Lattanzi, che è psicologo e psicoterapeuta, che ha fondato l'Associazione Italiana Psicologia e Criminologia, coordina l'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Rispetto alle formule fai da te, non voglio entrare in merito sulla assenza di civiltà per chi ricorre a queste formule, ma sarebbero efficaci, per assurdo? Assolutamente no, anzi, per molte di queste persone potremmo far scaturire, innescare un'altra sfida ulteriore, perché per loro spesso è una sfida, e quindi queste persone potrebbero passare a un agito molto molto molto più grave. Quindi assolutamente no, affidarsi alla giustizia, una giustizia che potrebbe essere anche riparativa e non solo punitiva. Ecco, qual è il vostro punto di vista rispetto alla legge? Ma oltre che un punto di vista, sono i dati ufficiali. Nel 50% le misure cautelari funzionano, altrimenti c'è un altissimo tasso di recidiva negli stalker, mentre il nostro protocollo, che noi abbiamo approntato da circa 10 anni, che è di tipo riparativo, una risocializzazione, funziona nel 75%. Quindi offriamo un ottimo protocollo che possa contenere, evitare agiti più gravi, come dicevo, e anche omicidi e suicidi. Andremo trattati come gli alcolisti, come i giocatori compulsivi. Ma infatti la parte del cervello che scatena questa forma di dipendenza affettiva è la medesima della dipendenza da sostanza, dipendenza da gioco d'azzardo, dipendenza da internet. Quindi sono ricerche che a livello nazionale, noi e internazionale, sono state fatte da 10 anni. Da 20 e questo anni. Nella legge non è contemplato? Purtroppo no. Spero che qualcuno, il ministro, il Parlamento, voglia... Ma chi è il vostro interlocutore in questo caso? Chi sarebbe? Il nostro interlocutore, che noi auspichiamo che presto si faccia sentire, è il ministro Fornello, che ha appunto la delega per le pari opportunità. Quindi si potrebbe fare, diciamo, un incontro, potremmo anche farlo in questa radio, adesso potremmo contattare noi il ministero, se il ministro Fornero è d'accordo di darci una persona che di questo abbia competenza, potremmo rimettere sul campo questa legge, perché mi sembra interessante il fatto che sia stata fatta una legge, un grande passo avanti. Assolutamente. Prima non se ne parlava nemmeno, sì. Veniva il maresciallo, ci dava la pacchetta sulle spalle, ma no signora, lasci perdere, una brava persona. Parlatene in famiglia, finiva così. La legge c'è, un grande passo avanti. Assolutamente. Sarebbe interessante adesso parlarne con il ministero, appunto, del ministro Fornero, per capire cosa possa essere fatto in più per un percorso preventivo e esatto. Curativo nei confronti del suo. Assolutamente sì, noi stiamo lavorando nei carceri anche con le persone agli arresti domiciliari, e ripeto, questo protocollo sta funzionando, ma non per ultimo in America e in Australia sono 20 anni. Noi siamo pronti a dare spazio in grazie. Questa trasmissione a questo spazio, cercheremo anche noi di contattare il ministero, mi sembra un argomento degno di attenzione. Sentiamo Aldo, buongiorno. Buongiorno. Ah, è quello di prima, scusi. Aldo, ecco, sì. Per capire, Aldo, lei che ha avuto modo di fare un percorso comunque di riabilitazione dalla sua follia amorosa, sì. Come è uscito? Quanto tempo ci è voluto e qual è stato il metodo? Allora, intanto dopo il primo anno, diciamo così, di questa mia follia, chiamiamola così, ho avuto la fortuna di incrociare il dottor Lattanzi, no? Per un caso fortuito, in quanto la persona che mi è stata vicina in quel primo anno è stato proprio il padre di questa ragazza, che è spaventato, cosciente di quello che stava capitando, mi ha praticamente aiutato ad ammorbidire la questione, no? Con sua figlia, cercando di tamponare un po' le mie così, cattiverie, no? Cioè ha detto la figlia parla con questo poveretto. Conoscere il dottor Lattanzi. Da quel momento, quindi nel 2007, io ho avuto 2 anni e mezzo di terapia con lui, nel quale abbiamo percorso tutti gli anni passati della mia vita, e venne fuori un problema di quando ero bambino, di un abbandono in famiglia, ma non l'abbandono definitivo. È successo che io non Beh, era particolarmente fragile rispetto a questa fattispecie. A tutti capita di essere mollati da persone che amiamo, pensiamo di amare, da cui siamo innamorati. È che normalmente, lo sa qual è? Tutti ci stiamo male, è possibile reprimere. È che uno se l'elabora da solo, alla fine quando capisce che l'altro ne vuol più sapere, se ne fa una ragione. Chi ci mette un mese, chi una settimana, chi 10 anni, ma comunque ce lo facciamo per conto nostro. Lo scatto, penso, che faccia lo stalker è quello che dice: no, devo per forza convincere questa persona che non può fare a meno di me. E questo magari è un pochino più difficile. Vitaliano, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo parlare un po' della mia esperienza, perché sono andato oggi anche vittima. Lei è vittima di stalker da parte di una donna? Da parte di una donna, esattamente. Beh, posso testimoniare che è una condizione che dà un'ansia micidiale, perché insomma agguati, telefonate. Ecco, noi non vogliamo minimizzare, lo stalker maschile è più frequente, ma anche quello femminile sa essere molto, però, molto fastidioso. A questo proposito, siccome anche tutte le... insomma, la campagna di comunicazione sullo stalking è totalmente sessista, nel senso che la vittima è sempre una donna, l'assecutore è sempre un maschio. Però a parte la mia personale... Lei vorrebbe, diciamo, una pari opportunità nel comunicare lo stalking, dicendo... Vorrei semplicemente sapere i numeri, perché siccome poi leggo anche un po' i giornali e vedo che... Resti lì, Vitaliano, non se ne vada. Allora, dottor Lattanzi, dice una cosa esatta. Assolutamente. Non vogliamo fare per forza quelli che stanno dalla parte delle donne sempre. Le donne rompono, se vogliono, in maniera crudele e cattiva la serenità di tanti uomini. In maniera più mirata e più sottile. Infatti il nostro osservatorio ad oggi ha contato il 30% degli uomini sono vittime di stalking. È che non è poco, un terzo sono donne. No, 1 su 4, sì. Un terzo delle persone che fanno stalking sono donne. Assolutamente. Questo sì. Non lo dice nessuno, perché tutti hanno paura di andare a urtare la sensibilità del maschio civilizzato. Ma che le donne possano massacrare le gonadi in maniera irreversibile a un uomo, questo mi sembra un dato di fatto. Ma infatti, ecco, grazie a Vitaliano possiamo ribadire che lo stalking non è una violenza di genere, può colpire chiunque a qualsiasi età, uomini e donne. E come agisce la donna? La donna, per certi versi, ripeto, è più sottile, cioè se noi siamo innamorati o ci teniamo particolarmente a un'autovettura, ci distrugge l'autovettura, se noi abbiamo una moto, ci graffia la moto. A me hanno squacciato le gomme della macchina 2 volte, esatto. Potrebbe essere una stalking. Potrebbe essere anche una donna, sì. Potrebbe essere una donna. Se abbiamo il pollice verde, ci in qualche modo con i veleni o con altre sostanze ci bruciano tutte le nostre piante. Cioè sono mirate, sono molto, molto attente. Io ieri sera ho rivisto un film terrificante che è Attrazione Fatale, sì. In cui la criminale stalker se la prende con i figli e con la moglie poi del poveretto che ha avuto una volta l'ardire di conoscerla carnalmente. Esatto. Ecco, l'unica differenza fra una stalker uomo e una stalker donna è che le donne colpiscono anche altre donne, gli uomini nell'80% perseguitano donne, le donne nel 50% perseguitano altre donne. Vitaliano, mi dica qualche episodio che lei ha subito, Beh, a parte che la mia donna particolare era anche piuttosto violenta, insomma, per cui lo menava pure. Ho dovuto anche chiamare i carabinieri un paio di volte, però a questo proposito volevo dire, uno, che su questa percentuale sicuramente gli uomini tendono a denunciare di meno, esatto. Per una questione anche lì di orgoglio maschile, sì. Seconda cosa, quando nel momento in cui io chiamo i carabinieri, che come le ho detto mi è successo 3 volte in 3 anni, c'è anche lì un grosso pregiudizio. La prendono in giro, diciamo, ma dove vai? Di cui ho sentito sentito una vena anche in quello che diceva lei, perché sembra che insomma un uomo dovrebbe sapersi difendere, no, senza guardi problemi. L'ho scritto adesso un'ascoltatrice, sì, prova ad andare in un piccolo paese, in una città di provincia, al commissariato a dire mia moglie mi picchia o mi maltratta, ti fanno una risata in faccia. Esatto. Proprio anche lì c'è un pregiudizio fortissimo. E l'ultima cosa, poi chiudo. È vero che potrei difendermi, ma è vero anche che non voglio assolutamente alzare le mani, per cui preferisco difendermi prendendole. Ma questo è anche logico. Un uomo avendo una sua superiorità fisica non può mettere le mani addosso a una donna, non è giustificabile, chiaro? Sì, lì siamo d'accordo, per cui devo subirla questa violenza. Ma lei l'ha denunciata? Momento... L'ha denunciata questa donna? No, perché poi... Perché? Si vergogna? No, non mi vergogno affatto, ma è che le voglio anche bene, perché capisco che... Ma allora siete vittime carnefici uniti da un filo indissolubile. Lei continuerà a subirla... Ma è lo stesso, ma mi sembra lo stesso discorso che si fa verso le donne, no? Sì, perché non chiede lei a una donna perché non denuncia suo marito? La stessa cosa. Sì, sì, ma lo sto dicendo, quello mi sembra aver capito, che comunque... esiste, e questo non lo giustifica, un filo indissolubile che lega il carnefice e la vittima. Lo stalker non esisterebbe se non ci fosse un minimo di accondiscendenza o anche di compiacimento da parte della vittima. È brutto dirlo, ma penso sia così. Dottor Massimo Lattanzi, io ho chiuso con un'affermazione forte, me ne faccio responsabile. Esiste un filo di complicità tra vittima e carnefice? Purtroppo sembra esistere. La nostra ultima ricerca verte proprio su questo, su il quoziente di empatia, su quanto una persona voglia mettersi nei panni degli altri e voglia aiutare l'altro. Non giustifica il reato comunque? Assolutamente no, però è una forma di prevenzione. Ad oggi si parla sempre di prevenzione, ma concretamente non si fa nulla. Noi come ricercatori stiamo approntando questa ricerca con due università, con la Sapienza e con Tor Vergata, e cerchiamo di comprendere quale sia il gancio che appunto lega la presunta vittima al presunto autore. Mi faccia capire, in un possibile intervento terapeutico, sì, dovrebbero partecipare entrambi, noi vittima questo carnefice. Facciamo il nostro protocollo preventivo riparativo, e se posso esprimermi grazie all'aiuto anche di Roma Capitale, la commissione sicurezza, da 2 anni abbiamo creato questo osservatorio sicurezza sulle vittime, dove noi anche con Aldo e con la sua compagna dapprima lavoriamo sui due individui, dopodiché comprendendo una forma di dinamica anche relazionale, cerchiamo di elaborare i sospesi di entrambi, lo chiamiamo un lavoro a coppia doppio, e dopo facciamo degli incontri e degli incontri per accompagnarli nella separazione. Ci vuole lavoro, è chiaro che non si fa in un batter d'occhio, in uno schiocchiare di dita, però bisogna farlo per accompagnarli nella separazione. Tutte le separazioni, quelle a rischio, dovrebbero essere accompagnate non solo dal punto di vista legale, ma dal punto di vista psicologico, psicoterapeutico. Anna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo parlare di una mia esperienza, come sono riuscita a evitare che la persecuzione continuasse. Cioè, io ho avuto la possibilità di avere un apparecchio telefonico che, oltre a visualizzare il numero del chiamante, elimina alla base subito le telefonate anonime. Io sono sempre stata perseguitata per telefono, da giovane, perché ero giovane e bella, e in un tempo successivo, e le confermo, da una donna, non da un uomo. Quando ho alzato l'apparecchio, dopo un po' di volte, ho detto: adesso ho la telefonata, registro la telefonata e dopodiché provvedo a denunciare, e adesso sono documentata. E cosa voleva questa donna? Era innamorata di lei? No, non era innamorata di me. Lei pensava che io potessi avere... una relazione col suo marito. Esatto, perché non era una gran bella amicizia, ma non... Ma probabilmente era disturbata. Io però posso dire una cosa, io non credo che il presidio tecnologico risolva il problema, anche perché oggi il telefono è l'ultimo degli strumenti che si usano per tormentare una persona. Esiste Twitter, Facebook, le email, la rete, la possibilità di essere anonimi in rete, è ancora un fatto precedente. Però è interessante che anche lei conferma che esiste, e non lo dico per misoginia congenita che non mi appartiene, ma è giusto svisciare il problema in tutte le sue fattispecie, sennò elimineremmo una parte del problema. Esistono donne ossessive, donne ossessionate, sono convinte che un uomo le ami, che un uomo segretamente le lanci messaggi misteriosi, che in realtà è una sola loro illusione, dovrebbe andare da un medico e farsi curare. se posso, sì. Nelle donne la differenza sta anche che le donne nutrono un'invidia, una gelosia particolare per un'altra donna. L'uomo è meno competitivo in questo, le donne si riconoscono anche nella competizione, nelle storie amorose. Per un uomo è questione di misure oniriche più che altro. Angelo da Lecco. Eccomi qua. Io ho avuto un'esperienza veramente singolare, nel senso che sono stato 5 anni con una donna, poi lei mi ha lasciato per motivi diversi, ma ha voluto mantenere il dominio su di me e controllava costantemente i miei spostamenti. Essendo io un professionista, avevo qualche problema anche di lavoro, e me la ritrovavo in ufficio, me la ritrovavo a casa. La storia fosse finita. Nonostante la storia fosse tecnicamente finita, ma poteva continuare qui e là. Lei era fidanzata, ma continuava a chiamarmi. Eccetera. Cioè, tanto per far capire, sì. Era per una botta ogni tanto, purché ti controllo, oppure era semplicemente un controllo? No, era una botta ogni tanto, devo controllare. Esiste una maniera per far capire. Posso fare quello che mi pare, ma tu invece sei solo mio e continuerai. Lei dice, io mi sono sistemata, ho messo su famiglia, e tu sei il mio ragazzo di piacere, quindi star solo per me. Esatto, ma questo significava che alle 3 di notte veniva a suonare il campanello, persone in giro, davanti all'ufficio. Come ha risolto questo problema? Ho risolto in questo modo, io ho cominciato al mattino insieme ad una mia amica terapeuta e a un medico, abbiamo pensato di, ho avvertito i carabinieri naturalmente, poi ho cominciato al mattino a alzarmi e dice, ciao tesoro, mi sono alzato, sono arrivato in ufficio. Ha cominciato lei a dettagliare esattamente. E alla fine com'è finita? È finita che lei si è stancata, si è annoiata, si è... A un certo punto ha trovato qualcun altro a cui dedicare l'attenzione e ha smesso di rompere le scatole. Ha trovato, insomma... Mi sono liberato e ho vissuto 2 anni, questo è il secondo anno di vita. Angelo da Brescia invece, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, state trattando un argomento che sento molto vicino, perché volevo dire una cosa, attenzione all'uso strumentale di questa legge. Certo, giustissimo. Perché la mia ex moglie, io sono stato denunciato per stalking dalla ex moglie, perché lei vuole sostanzialmente tenermi lontano dai bambini. Questo l'abbiamo toccato molte volte, parlando delle terribili situazioni per una legge matrimoniale non chiara, soprattutto non civilmente laica. Uno degli strumenti di vessazione diventa questo, denunciare, però questo non esclude che la legge ci debba essere, potrebbe denunciarla per furto, potrebbe denunciarla per mille altre cose. Però purtroppo i giudici dopo sono obbligati moralmente ad andare avanti per togliersi responsabilità di eventuali verità su questa è un'altra zona buia che abbiamo già toccato. Se non ci fosse questi tempi lunghi in ossequio alla sacralità del matrimonio, che per qualcuno può esistere ma non deve essere un'imposizione per tutti, non ci sarebbe questa storia. La gente quando si lascia senza strascichi, senza possibilità di ricatti, però è giusto ricordarlo. Dottor Lattanzi, è giusto anche questa circostanza specificarla? Purtroppo sì. Le finte denunce strumentali vengono strumentalizzate sia per l'affido dei figli che per anche poter tenere la casa di proprietà piuttosto che per altri beni. Diciamo che è una quota, diciamo, non molto significativa, ma ci vengono delle richieste anche in questo senso sia da uomini che da donne. E noi lo diciamo. Anna da Brescia. Anna, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io ho un vicino da 7-8 anni, beve e urla da matti. 7-8 ore va avanti anche. Allora, mio marito ha provato a dirgli qualcosa, ma senza urlare, dire ma la vuoi smettere. Noti che tra di noi... comunque c'era un buon rapporto. No? Sì, ma questo la insidia, la tormenta o è semplicemente un povero alcolista che urla perché ha i suoi problemi? Dunque, all'inizio era così, era un alcolista che urlava. Sì. E ce lo dovevamo sopportare. Questo è il vostro problema. Poi invece mio marito gli ha fatto l'osservazione un paio di volte e lui se l'ha presa direttamente con noi. Allora, parolacce. Sì, ma non è un altro caso, questo è un altro, esattamente, è un vicino molesto, si rivolge ai carabinieri, è un problema di alcolismo, ma poco a che fare con lo stalker. Dottor Lattanzi, questo è stato giusto perché la gente poi non si fa in tempo a delimitare una circostanza. Cosa vi auspicate in conclusione di questo? Noi abbiamo già lanciato il nostro appello, chiameremo il Ministero, sentiamo se sono d'accordo di mandarci un loro tecnico per parlarne. Qual è il punto? È proprio questo, cioè cercare di comprendere che possa succedere a chiunque, bisogna in qualche modo risocializzare e le istituzioni devono essere molto più sensibili. Vedremo se riusciremo a fare qualcosa. A domani.